ad un processo inflazionistico che portò il livello dei prezzi facendo base 100 nel 1913 a 409 nel 1918. La guerra aveva prodotto 680.000 morti, 600.000 prigionieri, più di 1 milione di feriti e quasi 500.000 di mutilati. Altri 600.000 morti furono causati dall'epidemia dell'influenza spagnola. Invece i grandi gruppi industriali come Ilva, Alsaldo, Montecatini e Fiat hanno fatto enormi profitti grazie alle commesse affidate dallo Stato, con le esenzioni fiscali e le sovvenzioni statali. Ma con la fine della guerra l'industria non può più contare sui grandi profitti e deve riconvertire da industria di guerra a industria di pace. Questo causa una forte disoccupazione e nel novembre 1921 i disoccupati in Italia saranno 2 milioni su una popolazione di circa 39 milioni. Il ritorno dalla guerra dei soldati comporta anche un forte esubero di contadini che nelle campagne porta alla fame. Il costo medio dei generi di prima necessità era triplicato rispetto al 1914. La lira subisce una forte svalutazione e nel 1920 avrà solo un quinto del valore che aveva nel 1914. In questa situazione di crisi aumentano le agitazioni sindacali. Nel 1919 si hanno 1.663 scioperi con 1.080.000 scioperanti. Nel 1920 vengono fatti 1.881 scioperi con 1.268.000 scioperanti. Gli scioperi si intensificano soprattutto nella seconda metà del 1919, mentre nel 1921, con la sconfitta dell'insorgenza rivoluzionaria, gli scioperi si ridurranno a 1.045 con 644.500 scioperanti. Il movimento rivoluzionario riuscì a ottenere le 8 ore lavorative e consistenti aumenti salariali. Il 15 aprile 1919 viene distrutta la sede del giornale L'Avanti, organo del Partito Socialista, e la prima azione squadristica fascista. In Europa, oltre alla rivoluzione russa del 1917, c'era stata anche una rivoluzione in Finlandia. Fra il febbraio e il dicembre 1918 era stata proclamata la Repubblica Sovietica in Ungheria. Anche in Baviera era nata una Repubblica Sovietica. C'era stato uno sciopero generale in Austria, la rivolta dei marinai dell'Adriatico a Cataro, il crollo della monarchia austro-ungarica, lo sciopero generale a Berlino e la proclamazione della Repubblica in Germania, dove ci fu anche la tentata rivolta spartachista. Scioperi e rivolte in Francia. Nel marzo 1919 si erano ammutinati marinai e soldati statunitensi, inglesi e francesi, che furono impiegati contro l'Unione Sovietica. In Inghilterra c'erano stati durissimi scioperi dei tessili e dei ferrovieri. Rivolte contadine erano avvenute in Bulgaria, Romania e Jugoslavia. Ascoltiamoci ora Gabriella Chiavarini e il coro del Collettivo Universitario Teatrale di Parma in Fra il 19, Fra il 20. Fra le 19, fra l'anno 20, gran cambiamenti gloriosi si dan. Con le elezioni, con le comunali, scaccia i clericali, l'agrario e il PP. Via e via, la borghesia, l'agrario e il PP. Via e via, fai conti con Lenin. Affittuari, rimaste mezzadri, è morto l'agrario e sta male il PP. Fan compassione soltanto a vederli, quei poveri merli che in gabbia resta. Via e via, la borghesia, l'agrario e il PP. Via e via. Siamo comunisti, artisti e valenti, intelligenti e per lavorare. Per minoranza c'è qualche pipì, ma poverino più forza non ha. Basta e basta, massacratori dell'umanità. Santo giusto, verrà quell'ora che chi non lavora non deve mangiare. Basta e basta, massacratori dell'umanità. Basta e basta, che l'IVA vi pagherà. Le guardie regie, figura più brutta, le carne di rubare, ammazzare, pipì e clericali, le cose bestiali non è santità. Basta e basta, la borghesia, l'agraria e il pipì. Basta e basta, fai conti con le mie. Basta e basta, la borghesia, l'agraria e il pipì. In Italia, nel giugno 1919, iniziarono i moti contro il carovita. La prima città dove avvengono rivolte di piazza è La Spezia, dove i tumulti esplodono improvvisamente l'11 giugno, in seguito alla decisione dei grossisti di frutta e verdura di fare la serrata contro un aumento dell'imposta comunale di consumo. Gli operai delle fabbriche, dei cantieri navali e dell'arsenale, senza attendere direttive dalle organizzazioni sindacali, spontaneamente abbandonano il lavoro. 10.000 operai arrivano in corteo davanti al Palazzo Comunale, dove parlano socialisti e sindacalisti anarchici dell'Unione Sindacale Italiana. Poi il corteo si dirige verso Piazza Brin, ma arrivati in via Cavour vengono affrontati dai carabinieri che aprono il fuoco, uccidendo 2 operai e ferendone 25. La massa degli operai non arretra e inizia a saccheggiare un gran numero di negozi. Viene proclamato lo sciopero generale, che assume caratteristiche di movimento insurrezionale e si estende a tutte le località della provincia. Il 13 giugno la rivolta inizia anche a Genova, dove 50.000 lavoratori scendono in strada ed arrivano in Piazza De Ferrari, dove si svolge un comizio. Qui avvengono scontri con la forza pubblica. Muore un giovane operaio e 2 poliziotti vengono feriti. Vengono tentati assalti ad alcuni negozi, mentre continuano gli scontri per tutta la giornata. La sera viene tentato l'assalto alla caserma in piazza Cavour delle guardie di città, che sparano e feriscono gravemente 3 lavoratori. A Santo Stefano Magra viene ucciso un carabiniere. Viene fatto intervenire anche l'esercito per imporre lo stato d'assedio, ma molti soldati e marinai fraternizzano con i rivoltosi. A Milano, appena si sparge la notizia degli avvenimenti di Genova e La Spezia, gli operai sospendono il lavoro e proclamano lo sciopero generale, senza aspettare le direttive della Camera del Lavoro. Anche a Torino viene proclamato lo sciopero, che si protrarrà fino al 15 giugno, per protesta contro la polizia che ha occupato i locali della Camera del Lavoro. 20.000 operai bloccano il centro cantando Bandiera Rossa nella vecchia versione, con il ritornello A morte il re. Il 16 giugno scende in sciopero anche Pisa, dove in un primo tempo la Camera del Lavoro boicotta lo sciopero e solo in un secondo tempo aderisce. Al comizio i lavoratori impediscono di parlare ad un sindacalista perché interventista. Sempre il 16 giugno sciopera Bologna. I dirigenti socialisti cercano di calmare le acque, accettando il calmieramento dei prezzi proposto dal sottoprefetto. I sindacalisti dell'USI si scontrano con i socialisti della Camera del Lavoro, ma lo sciopero rifluisce e termina la sera del 17 giugno. Il 30 giugno a Forlì una folla guidata dalle donne saccheggia negozi di frutta, verdura, pesce e calzature. Il 1 e 2 luglio viene proclamato lo sciopero generale in tutta la città. Viene nominata una commissione operaia cittadina che prende possesso delle merci dei negozianti e riduce il prezzo di tutto di oltre la metà. I soldati fraternizzano con la popolazione che li rifornisce di alimentari, vini e liquori. Lo stesso giorno scendono in sciopero generale Faenza, Ancona e Imola, dove vengono assaltati i negozi e dove la sera la folla straccia il calmiere del Regio Commissario e pretende garanzie per l'approvvigionamento. Sempre lo stesso giorno scontri con agenti e carabinieri avvengono a Torre Annunziata. Il 3 luglio a Imola i carabinieri sparano sulla folla, uccidendo 5 lavoratori. La stessa sera viene imposto il calmiere del 50% sui prezzi, con scontri in piazza a Forlimpopoli, Cesena, Civitavecchia, Iesi, Senigallia, Ancona, Falconara e in molte altre città. Ed ora ascoltiamoci La Rivoluzione di Enzo Del Re. La rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione non è un semplice avvenimento. La rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione è una conquista quotidiana. Cina, Cuba, Algeria, Russia, Cile, Vietnam sono esempi di vittoria della nuova civiltà. La rivoluzione è la distruzione dei manicomi, degli ospizi e le prigioni. La lotta continua, la lotta continua contro ogni sfruttatore. La lotta continua, la lotta continua, la lotta continua contro il servo e il suo padrone. La lotta continua, la lotta continua, la lotta continua contro ogni qualunquista. Cina, Cuba, Algeria, Russia, Cile, Vietnam sono esempi di vittoria della nuova civiltà. La rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione non è un semplice avvenimento. La rivoluzione, la rivoluzione è una conquista quotidiana. La rivoluzione è una conquista quotidiana. La rivoluzione è una conquista quotidiana. La rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione. Sempre il 3 luglio scende in lotta tutta la popolazione di Firenze. La mattina, una dopo l'altra, spontaneamente le officine della città entrano in sciopero e migliaia di lavoratori si ritrovano alla Camera del Lavoro. Si verificano decine di scontri di strada e un lavoratore rimane ucciso da un carabiniere a cavallo ed altri 80 rimangono feriti. Viene decisa anche qui la riduzione della metà dei prezzi delle merci calmierati e di quelli non calmierati, come le medicine, del 70%. Il 2 pomeriggio vengono occupate la Galileo e la Pignone e altre 6 fabbriche. Alla Galileo, dove anche i tecnici restano al loro posto, le bandiere rosse spuntano ovunque e una fanfara improvvisata suona l'inno dei lavoratori. Il 5 luglio lo sciopero prosegue e i dirigenti sindacali sono costretti a proclamare lo sciopero generale a partire dalle 3 del pomeriggio. Alle 18 il segretario della Camera del Lavoro va dal prefetto per consultarsi con lui circa la nomina di una commissione per studiare il mezzo migliore per disciplinare il movimento. La folla intanto invade il centro e la periferia ed inizia ad asportare la merce dai negozi di alimentari, di stoffe e di scarpe e a distribuirla ai lavoratori a prezzi molto bassi. La merce che non viene venduta subito viene portata nella Camera del Lavoro, nelle cooperative e nelle società di mutuo soccorso. In alcuni casi gli esercenti stessi portano la loro merce in quelle sedi o espongono cartelli in cui è scritto «La merce resta a disposizione della Camera del Lavoro». Quindi la Camera del Lavoro stabilisce i prezzi delle merci. Vengono assaltati solo negozi che vendono beni di prima necessità. Il giorno dopo la città è completamente in mano al popolo. Il prefetto non può fare affidamento sull'esercito. Avviene un solo scontro con la polizia tra Piazza Duomo e Via Roma, dove durante una carica con le sciabole viene ferito un giovane operaio. Vengono però effettuati 500 arresti. Sono requisiti dai manifestanti tutti i mezzi di trasporto per andare a prendere la merce nei magazzini in campagna e a Brozzi, Peretola, Galluzzo, San Casciano, Pontassieve e Prato. Si provvede anche a inviare camion di derrate alimentari alla popolazione del Mugello colpita dal terremoto. L'associazione combattenti in un manifesto scrive, aderendo al movimento contro il caro viveri, i reduci delle trincee non siano più oltre affamati. Dunque, la Camera del Lavoro è il solo organismo che può esercitare il potere a Firenze. La forza pubblica però riesce gradualmente a riprendere in mano la situazione. La Camera del Lavoro ordina la cessazione dello sciopero, ma lo sciopero generale spontaneamente continua anche il 6. I carabinieri sparano e uccidono due lavoratori, ne feriscono 8 e ne arrestano altri 200. Lo sciopero continua però compatto a Prato e Pistoia, mentre soviet annonari sorgono nelle località grandi e piccole della Toscana, dell'Emilia, della Romagna e delle Marche. Col termine bocci bocci, che deriva da bolscevismo e dalla frase tipica fiorentina fare i cocci, cioè rompere tutto, a Firenze in Toscana furono ricordati i moti contro il caro viveri del 1919. Ed ora ascoltiamoci l'inno dei lavoratori, cantato nel 1919 dagli operai della Galileo e della Pignone, eseguito dal coro delle Camicie Rosse. A nord di Prato fu costituita una repubblica dei soviet della Valle del Bisenzio, che durò per 8 giorni, dal 4 all'11 luglio, coordinata da comitati di agitazione e dalla Camera del Lavoro, che in quella settimana si sostituì alle pubbliche autorità, funzionando da deposito dei beni requisiti, centro di distribuzione delle merci che vennero vendute alla metà del prezzo ordinario tramite la rete di cooperative e spacci, oltre a funzionare da istituzione di controllo del territorio anche attraverso appositi lasciapassare che le permettevano di muoversi liberamente nella valle. A Palermo, 25.000 operai, con alla testa i metallurgici, proclamano lo sciopero e requisiscono le merci di molti negozi, riducendone il prezzo della metà. La polizia effettua arresti in massa. Anche a Brescia, sciopero generale e requisizione delle merci. Vengono effettuati diversi arresti. Il 9 luglio migliaia di manifestanti si raccolgono davanti alla Camera del Lavoro per chiedere la scarcerazione degli arrestati. Carabinieri e cavalleria sparano sulla folla, uccidendo un lavoratore. I manifestanti però contrattaccano, costringendoli alla fuga. Numerosi feriti sia tra i manifestanti che tra le forze della repressione. Poi la città viene posta in stato di assedio e presidiata dai soldati, che però si rifiutano di scontrarsi con la popolazione, finché non intervengono gli alpini, che si scontrano con i manifestanti, mentre la città viene sorvolata da aerei. A Livorno viene proclamato lo sciopero generale delle leghe, che ordinano la riduzione della metà del prezzo dei generi alimentari e del 70% su quello dei tessuti. Tutti gli esercizi commerciali che non si adeguano vengono immediatamente requisiti. A Lucca sono i commercianti che vanno alla Camera del Lavoro proponendo una riduzione dei prezzi. A Catania, dopo un primo scontro fra manifestanti ed esercito, le due parti fraternizzano, ma la polizia interviene, sparando con mitragliatrici, facendo numerosi feriti. A Piombino vengono costituiti i soviet annonari e viene costituita la Guardia Rossa, che procede alla requisizione e distribuzione dei generi alimentari. Si tratta di una vera e propria insurrezione. Gli operai si armano, erigendo barricate, e viene assaltata una caserma dei carabinieri. I negozi e i depositi vengono saccheggiati. Viene imposto lo stato d'assedio e vengono inviati ben 1.500 carabinieri da altre località. Il 6 luglio, a Milano, una grande manifestazione reclama la riduzione dei prezzi dei generi alimentari del 50%, assaltando circa 200 negozi. Molti negozianti espongono il cartello su cui è scritto «Merci a disposizione della Camera del Lavoro». La polizia effettua ben 2.200 arresti. A Genova, il 7 luglio, manifestazioni e scontri raggiungono il loro apice e migliaia di operai metalmeccanici e dei cantieri saccheggiano negozi e magazzini, scontrandosi con le forze repressive. Negli scontri fra i manifestanti ci fu un morto, numerosi feriti e molti arresti. A Sestri Levante viene costituito un comitato cittadino di salute pubblica che durante 9 giorni imporrà con le guardie rosse un calmiere proletario dei prezzi requisendo le merci imboscate. Il 6 luglio a Barletta i lavoratori occupano e governano direttamente la città tramite i consigli del lavoro fino al 10 luglio, quando le truppe riescono ad entrare in città. Negli stessi giorni a Napoli gli operai proclamano lo sciopero generale, saccheggiando molti negozi ed occupando i rioni popolari, scontrandosi con la polizia. Ci furono 20 feriti. A Savona, il 7 luglio, migliaia di operai in corteo impongono la riduzione dei prezzi delle merci che il prefetto aveva stabilito solo per la verdura, anche per tutti gli altri generi alimentari, per le calzature e per i tessuti. Viene anche formata una Guardia Rossa. Bari e provincia sono in sciopero generale. A Pisa lo sciopero dura 3 giorni e viene imposta la riduzione dei prezzi del 60%. In tutta l'Umbria si attua lo sciopero generale e si requisiscono le merci. A Messina la popolazione svuota i negozi e porta la merce alla Camera del Lavoro. A Colle Valdelsa vengono requisite tutte le merci. A Taranto, il 9 luglio, durante gli scontri, vengono uccisi 4 lavoratori e ci sono numerosi feriti. A Sulmona la popolazione invade il palazzo comunale e nomina una commissione per la riduzione dei prezzi della metà. A Ferrara vengono costituite le guardie rosse che controllano il dimezzamento dei prezzi nei negozi. Inoltre scioperano tutti i compatti a San Giovanni Valdarno, Todi, Spoleto, Città della Pieve, Civitavecchia ed altre centinaia di località in tutta Italia. Insomma, i moti contro il caro viveri del 1919 investono tutta l'Italia da nord a sud e da est a ovest. Ascoltiamoci ora una canzone spesso cantata durante i moti per il caro viveri. Se arriverà Lenin. Se arriverà Lenin, faremo una gran festa. Crescerà, oilì, oilà, e la Lega crescerà. Le guardie regge in pentola, ci fanno il brodo giallo. Carabinieri in umido, la Lega crescerà, oilì, oilà, e la Lega crescerà. E se verrà Lenin, faremo una gran festa. Il 10 luglio i moti per il caro viveri iniziano a smorzarsi e inizia una sistematica repressione. Vengono effettuati arresti in massa. A Roma però proseguono tumulti e arresti, ma nel pomeriggio i carabinieri effettuano a freddo un eccidio in Piazza Vittorio e 3 lavoratori vengono uccisi. Il 14 luglio si contano 8 morti e 30 feriti in uno scontro. Anche a Rio Marina, all'isola d'Elba, viene ucciso un lavoratore e feriti diversi altri. Altri 2 operai vengono uccisi dai carabinieri a Rossiglione. Altri 3 morti e 14 feriti si hanno a Spilimbergo. Il 20 e 21 luglio viene indetto uno sciopero internazionale sindacale per protestare per gli interventi contro le repubbliche sovietiche russa e ungherese, che viene sentito come un momento decisivo per la rivoluzione. Lo sciopero riuscì e l'Italia rimase paralizzata, ma i dirigenti socialisti della Confederazione Generale del Lavoro fecero di tutto perché non si trasformasse in un moto insurrezionale. Il governo mise in atto una forte repressione preventiva, effettuando molti arresti, tra cui Antonio Gramsci, il segretario nazionale, e la vice segretaria dell'USI, e l'anarchico Camillo Berneri. Il 28 luglio poi entrarono in sciopero i metallurgici di Milano. Lo sciopero diventerà generale in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana il 9 agosto, con 200.000 metallurgici che incrociano le braccia. Proclamano lo sciopero anche i tipografi a Roma e a Parma, i tessili nel Comasco, i marittimi a Trieste e i contadini nel Novarese. Le ultime località che scendono in sciopero sono Caltanissetta e Crotone. Poi, il 3 e 4 dicembre 1919, a Mantova esplode la rabbia per l'inflazione galoppante, la disoccupazione e la mancanza di generi alimentari. La mattina del 3 la città è paralizzata con le fabbriche in sciopero, le botteghe chiuse e le strade deserte. I lavoratori raggiungono la Camera del Lavoro, da cui parte un grande corteo che rompe i vetri del presidio militare, occupa la stazione ferroviaria dove vengono divelte le rotaie, taglia i fili del telegrafo per interrompere le comunicazioni, attacca le carceri, disarma le guardie e incendia gli uffici liberando i detenuti. Vengono requisiti autocarri e assaltate le armerie. Lo scontro a fuoco con le forze repressive avviene a Piazza Garibaldi. Il bilancio sarà di 4 morti, tra cui un militare e la moglie del capo delle guardie carcerarie. Il giorno successivo, ignorando i richiami alla calma del segretario della Camera del Lavoro, viene indetto un comizio a cui partecipano 2.000 persone. Si tenta quindi l'assalto alla barriera Virgilio. Viene inviata una colonna di soldati che riesce a sorprendere alle spalle i manifestanti e uccide 2 lavoratori. Fra il 3 e il 4 dicembre vengono uccise dalle forze repressive 15 persone. 100 sono ferite e 300 sono arrestate. I fatti più gravi, oltre che a Mantova, avvengono ad Andria, Torino e Roma. In tutta Italia le Camere del Lavoro diventano organi di potere dei lavoratori e delle masse popolari in rivolta. Ma non diventano gli embrioni del nuovo Stato socialista, perché dirigenti e sindacalisti si limitano a una funzione calmieratrice dei prezzi dei generi di prima necessità, rimanendo nell'ambito dello Stato borghese. A Cuneo, ad esempio, il Consiglio Comunale di destra ordina il ribasso del calmiere del 50%, dando l'incarico alla Camera del Lavoro di farlo osservare, mentre in piazza la popolazione chiede la costituzione a spese del comune di una milizia popolare armata. Ed ora ascoltiamoci Spara Iuri Spara, dei CCCP. Il segretario del Partito Socialista Lazzari il 4 luglio scrive un comunicato in cui possiamo leggere: «Il partito non può essere con la folla esasperata per fiancheggiare l'impulso spontaneo e guidare le iniziative verso una possibile soluzione». Il ministro Tittoni scrisse: «Nei gravi tumulti scoppiati in varie parti d'Italia, rimasi impressionato che per riunire le forze sufficienti a fronteggiarli occorresse far venire guardie e carabinieri dalle regioni immuni, che rimanevano così sguarnite. Più volte ebbi a domandarmi che cosa avrebbe potuto fare il governo se un movimento di rivolta fosse scoppiato contemporaneamente in tutta la penisola». Finisce qui questa prima parte dedicata al biennio rosso 1919-1920. La prossima sarà dedicata alle lotte contadine e agli ammutinamenti e le rivolte dei soldati.